Buonasera, buonasera a tutti su Radio Alma e su Radio Alma e Colori dell'Anima, qui a Saint-Gilles, come sempre in studio ci siamo io, Carla e Cecilia. Buonasera a tutti, vorrei anche fare un plauso a questa giornata di sole che Bruxelles ci ha regalato, per la quale siamo tutti contenti. No, tutti contenti. No? Sì, direi. Poi Cecilia sosteneva un allungamento del tempo, un fenomeno, sì, fenomeno scientificamente conosciuto in tutto il mondo. Come dilatazione spazio-temporale, no, semplicemente temporale, ma solo per il fatto che oggi era un giorno di festa. Ecco. E questo un po' secondo me mi ha sballato i sistemi, perché... Dai, ne parleremo nella nostra prossima puntata di giugno. Va bene. Cecilia ospite e ne parlerà di questo... In diretta dal CIM. Esatto. E alla regia, vediamo se è in forma. Angelo, stasera ci fai sentire la tua voce. Buonasera a tutti, buonasera qui dalla regia. Ti sentiamo male, ti sentiamo male. Ti sentiamo lontano. Mi sentite lontano. Beh, qui a Radio Alma potenti tecnici... come si chiamano? Potenti mezzi tecnologici ci aiutano sempre. Adesso vedrò di fare il possibile. Vieni vicino a noi. Vedi che avevo ragione con la dilatazione spazio-temporale. Hai ragione. Anche Angelo è affetto da questa. Puoi aggiungerlo nei tuoi punti. Allo, da discutere. Adesso mi sentite un po' meglio? No, uguale a prima. Toujours loin. Ma intanto direi di dare i numeri. Che vai, tanto già ci piace. Ci piace dare i numeri, prima o poi li giocheremo pure al... Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E buonasera di nuovo a tutti quanti, siamo qui su Radio Alma, i colori dell'anima, siamo io, Carla e Angelo, come ogni ultimo lunedì del mese, vi teniamo compagnia per un'ora con... ospiti e Carla, possiamo dire qualcosa del nostro ospite misterioso di questa sera, oppure... Ma io dico che è venuto fino a qua, poi non vive neanche a Bruxelles, poi addirittura un giorno è venuto da Palermo, quindi io direi che lo possiamo far parlare. Buonasera Vincenzo. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di Radio Alma, grazie per questo invito. Ma io direi che lo possiamo scritturare. Vabbè ragazze, uscitevene voi, facciamo la trasmissione di lui che ha una voce radiofonica che è la fine del mondo. Ma come? Scritturato, scritturato. La domanda è d'obbligo, Vincenzo, dopo una canzone del genere che tra l'altro hai scelto tu. Sì. Ti senti italiano? Certo che mi sento italiano, ma non soltanto, tento di allargare un po' gli orizzonti, no? Mm-hmm. Dici quali sono i tuoi orizzonti ai nostri radioascoltatori che... Ma la verità è che i miei orizzonti non li ho neanche scelti io, perché sono nato a Parigi, ho vissuto a Lussemburgo, ho vissuto in Italia, sono tornato da queste parti e adesso dal 91, quindi da 24 anni, sono fermo a Bruxelles. Comunque fermo, insomma, tento di scappare il più possibile. Spesso e volentieri va in Sicilia, no? Ovviamente. È la terra di mio padre, quindi ecco, sono rimasti i legami con i parenti, la terra. E la terra. E gli amici. Sì. E la terra, parecchio la terra, no? Parecchio la terra, ma anche il mare, perché io sono uomo di terra e di mare, ecco. Tra le olive e le barche. E le barche, esattamente, le barche a vela. Mi ricordo che raccontavi di una barca che avevi prenotato e poi non te l'avevano fatta trovare. Ah, quest'Italia che non funziona. Sì, mi ricordo. Va bene, non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo ed è per questo che in maniera molto strategica parleremo di altre strategie, non quelle italiane, ma quelle di un, non so di che origine è questo belga. Monsieur Laloux, belga, sì. Per... diciamo in maniera forse un po' semplicistica, quello che ho capito è di come ripensare l'organizzazione di un'impresa, di una qualsiasi organizzazione, da piccola a grande che sia, in maniera un po' moderna, no? È abbastanza rivoluzionario. Allora, per contraddire Giorgio Gaber, che in questo brano ci ha detto che ma in Italia non cambia mai niente, tentiamo proprio di introdurre qualche cosa che vada in questo senso, nel senso del cambiamento, piuttosto che lamentarci, no? Perché quando mi avete chiesto di presentare qualche cosa, insomma, ci ho pensato un attimo e quello che mi stava al cuore era proprio il discorso, o i discorsi che si sentono in questi tempi, non soltanto in Italia fortunatamente, anche un po' altrove. Alla fine, insomma, ognuno tenta di capire cosa sta succedendo, in che mondo viviamo, e ci accorgiamo. Magari che... diciamolo ai nostri radioascoltatori che le possibilità di argomenti con te erano abbastanza vaste. Sì, mi hai lasciato campo libero, grazie. Campo libero, carte blanche, però insomma questo era, il ventaglio era abbastanza vasto, perché tu magari puoi dire qualche parola, che non sei laureato in economia e commercio. Esattamente. Di che cosa ti occupi, Vincenzo? Io sono laureato in psicologia clinica e patologica. Cecilia, due mestiere. In una sola stanza, due in una sola stanza. Uscirò guarita, non siamo maghi, io lo dico più volte. Ma come non siamo... siete maghi? Allora no? Che uno che studia fa la psicologia. Hai ragione. No, ma due donne da psicoanalizzare non è possibile. Uscirò io strano da questa stanza. Ecco, insomma, quindi mi occupo di persone in sofferenza. E sono anche psicoanalista. Quindi, niente, l'argomento non è così in primo luogo legato al mio mestiere, però è un campo che mi interessa, perché mi interessa anche a ciò che succede fuori e non soltanto dentro lo studio o nel centro diurno nel quale lavoro. Ecco, tenterò di darvi qualche chiarimento su queste nuove tendenze studiate da Frédéric Laloux, che cito perché le cose non le ho scritte io, le ha scritte lui. Però quindi ci dicevi, sei andato a una conferenza che ti ha ammaliato, ti ha particolarmente ispirato. Sì. È stata particolarmente illuminante. Ha messo in moto un altro pezzo del mio cervello che già funziona. Però questo pezzo qua l'avevo lasciato un po' da parte, ma perché non dargli un'opportunità? Svegliamolo. Esattamente. Bene, come vogliamo fare? Sempre nell'ottica della suspense, dici qualche parola di questa visione e poi cediamo la parola alla regia. Allora, la cosa che mi ha appassionato in questo studio di Frédéric Laloux è che lui è andato in giro per il mondo a incontrare imprese, capi di imprese, che funzionano in un modo abbastanza particolare e innovativo, a sapere che non esiste gerarchia. Allora, precisiamo anche che, malgrado questo, c'è una struttura di funzionamento abbastanza chiara e ben strutturata, perché sennò succede soltanto casino. Ha fatto di diverse scoperte, diciamo, si è accorto che senza conoscersi queste imprese avevano sviluppato dei metodi abbastanza simili. E quindi ovviamente la prima domanda che viene, sì, però un'impresa che funziona senza un capo azienda, senza una gerarchia, senza autorità, come funziona, com'è? Che può andare bene e non finire in un casino. E lui come le ha trovate queste aziende che funzionavano già così? Allora, lui le ha trovate abbastanza facilmente, perché il suo mestiere è stato consulente alla McKinsey, che è un'azienda mondiale che si occupa di consulenze per le grosse imprese, generalmente, perché si fanno pagare anche. Dopo 20 anni ha deciso di fermarsi un attimo e studiare. Perché? Perché nel suo mestiere si è accorto che la gente che lavora spesso in sofferenza, e sempre di più. Cambiano i ritmi lavorativi, cambiano i rapporti, insomma tutto va sempre più veloce, bisogna fare sempre di più, e chi dirige tutta questa economia o tutto questo funzionamento, anche nel campo degli ospedali, delle cure, eccetera, sono i soldi. E quindi dice: no, è assurdo, non si può andare avanti così, è un sistema destinato a schiantarsi, e quindi ha cercato altre cose per evitare questo schianto. Ecco. E fermiamoci qui per qualche momento, passiamo alla linea alla regia. Il prossimo brano si intitola Non insegnate ai bambini. Giro giro tondo, Aspettate, cambia il mondo. Abbiamo sentito Giorgio Gaber cantare e sembra era un brano a parte bellissimo che in qualche modo poi si inserisce un po' nel tipo di conversazione che stiamo avendo questa sera su modi innovativi per cambiare un po' il modo di, forse non di pensare, ma quantomeno di tutti, però quantomeno di agire, forse di almeno gruppi di persone, perché parliamo con il nostro ospite Vincenzo, stiamo parlando di organizzazioni senza gerarchia, che è una cosa, devo dire, un argomento affascinante. Io oggi confesso che quando ho cercato un po' di che cosa si trattava, ho trovato spesso la parola anarchia, mentre da quello che sento che insomma ci stavi raccontando prima, sono due cose molto diverse, perché anarchia è un po' l'assenza di regole, mentre tu ci dicevi che comunque anche in un'organizzazione in cui non c'è una gerarchia piramidale come quella che concepiamo, insomma, dallo Stato andando in giù praticamente forse fino alle scuole, c'è però, ci dicevi, no, una forma di organizzata di struttura, e comunque in qualche modo c'è una assolutamente una rete, non so nemmeno come dirlo, però c'è un piano, insomma, non è completamente destrutturato, c'è una struttura, no? Esattamente, praticamente stai facendo proprio il percorso giusto rispetto a questa questione. Detto perché... sempre che eri fantastico. Noi ce l'abbiamo per questo. Perché ho studiato scienze politiche, ogni tanto fatemi usare quel poco che ho imparato. Ecco, effettivamente, abolendo la gerarchia, tutti rimangono con la domanda, ma come si fa allora? Come si organizzano le cose? Chi decide? E lui ha notato che praticamente la collettività produce delle cose interessantissime ed è capace anche di produrre una struttura molto forte, perché lui si è reso conto, lavorando e analizzando grosse imprese, che a un certo punto la gerarchia ha i suoi limiti, vuol dire che è capace di gestire una complessità determinata, sorpassata questa complessità non c'è più modo, e quindi le cose iniziano ad andare male. E osservando anche fatti naturali, eccetera, lui si è accorto che la natura si organizza da solo, non c'è chi comanda la natura, a meno che uno creda che ci sia qualche spirito più diciamo elevato, insomma, è una questione piuttosto spirituale questa qua. La natura si organizza da sola, e fino a quando noi non interveniamo, al limite funziona anche benissimo. Poi noi veniamo a squilibrare un po' le cose, perché dobbiamo strutturare a modo nostro e anche imprimere il nostro potere o i nostri poteri, che sono alla verità abbastanza limitati. Quindi le tue domande sono giustissime. Cosa succede? Praticamente, abolendo la gerarchia, bisogna instaurare una comunicazione, che però non è il sistema, sostituiamo la gerarchia e mettiamo un sistema di consultazione, quando tutti siamo d'accordo e tutti avranno capito, decidiamo qualcosa, perché alla fine può durare anche a lungo. Non si deciderebbe prima, mai. Esattamente. Allora, come funziona? Frédéric Laloux nota che praticamente in queste aziende i reparti, i servizi si organizzano prima di tutto con la riconoscenza delle competenze di chi ci lavora, e quindi c'è molta comunicazione tra le persone, ed ognuno è libero di decidere a livelli proprio di... L'operaio dice: no, questa macchina non funziona, produce male, io ne conosco un'altra o ne posso inventare un'altra che produce meglio. E cosa fa? La ordina, senza chiedere a nessuno. Immaginiamoci, in un'impresa normale, tra virgolette, una situazione del genere. Però, ovviamente, per fare questo, lui, la regola, deve consultarsi con tutti gli esperti e tutte le persone coinvolte nelle decisioni. E quindi, praticamente, prima di comprare la macchina, deve andare a trovare le altre persone che lavorano con lui per valutare anche il loro avviso, ma anche le conseguenze che potrebbe avere questo cambiamento sulla produzione e sulle altre persone coinvolte nel lavoro. Dopodiché decide lui, senza chiedere il permesso. Ovviamente queste discussioni avute con chi lavora attorno a sé vengono consegnate, e quindi quando una persona decide di prendere una decisione, fare un investimento, innovare in qualche modo, poi deve fare i conti con i suoi collaboratori, i quali avranno anche un giudizio, quindi uno alla fine si regola da solo, perché non può fare tutto quello che gli passa per lo spirito, perché gli è passato per lo spirito. Lo devo fare seguendo ovviamente l'obiettivo del suo ambito lavorativo, e quindi collaborazione con i colleghi. Il grosso vantaggio è che non c'è in gioco il gioco di fare la bella figura e dire io mi mostro in tale modo, o io mi faccio avanti più degli altri e così mi faccio vedere meglio da chi mi sta di sopra e salgo. Giusto? Quindi abbiamo eliminando la gerarchia, quindi questo problema. Stesso livello, tutti stesso stipendio, come? No, allora anche lo stipendio si discute. Ognuno si valuta, dice se mi colloco dentro l'azienda, valuto che a seconda dei risultati dell'azienda mi sta bene guadagnare tanto, cosa che viene discussa da tutti, ma alla fine uno può anche decidere, in alcune imprese lavorano così, uno può anche decidere che si paga quello che vuole. Ovviamente c'è un comitato qua, che e qua cascalassino. Allora, ovviamente no, ma allora com'è che è regolata questa cosa? Da dove viene la regolazione? Non dal capo azienda che dice no, ma tu non te lo meriti, quello se lo merita di più. Cioè, quindi togliamo anche questo discorso delle amicizie, dei leccaculi. Eh no, se ci togli questo, come fa? Come si vive se ci togli le amicizie, le parentele? No. E quindi praticamente quando torna al discorso della valuta degli altri colleghi, dei collaboratori, ovviamente c'è sempre quello che dice: senti, ma io ho visto, perché tutti i conti sono trasparenti e dunque chiunque può vedere chi guadagna quanto in tutta l'azienda, non ci sono segreti. E quindi uno che si è pagato, che ne so, il doppio di un altro che fa lo stesso lavoro, ovviamente deve assumersi la reazione dei colleghi che vengono e dicono: oh, ma noi abbiamo visto che quest'anno tu ti sei fatto uno stipendio eccezionale, ma che cosa hai fatto di particolare rispetto agli altri, eccetera. E quindi, insomma, per evitare e onde evitare questo tipo di poi sgradevoli e spiacevoli situazioni con i colleghi, ognuno riesce a regolarsi in modo abbastanza armonioso. La cosa però interessante di queste imprese è che di solito, paragonate a chi fa lo stesso lavoro nello stesso settore, guadagnano molto meglio, sono molto più efficienti, e altra cosa importantissima, le persone che ci lavorano hanno una soddisfazione al lavoro molto più grande, a tal punto che alcuni si sono confidati dicendo: beh, sapete, se a casa le cose funzionassero come funzionano nella nostra azienda, sarebbe proprio bello. Per dire che, insomma, si trovano bene al lavoro e quindi si coinvolgono, si implicano in tutt'altro modo. No? Esattamente. La fiducia è una cosa importantissima, hai fatto bene di puntare questa cosa, perché devono cadere le maschere. Uno dei principi di questo funzionamento è che si va a lavorare senza la maschera, perché non c'è da mostrare altro che se stessi, le proprie competenze, il proprio coinvolgimento, perché non c'è da sedurre il capo, il superiore. Più che una selezione del personale a livello di competenze, è proprio una selezione di personalità, io direi, di persone che possono farlo. Secondo me ci sono persone che avrebbero difficoltà in qualcosa del genere, che amano la legge che viene dall'alto e certo, seguire. Ma chi non è fatto non ci rimane, chi non è fatto per questo sistema. E la cosa bellissima è che praticamente un dipendente decide: ecco, io ho un progetto, voglio andare avanti con una cosa più evoluta di quella che sto facendo, mi cerco uno e lo faccio assumere dalla ditta e io inizio il nuovo poi lavoro. Poi ci sono quelli a cui piace l'ascesa, no? Proprio a cui piace il potere, a cui piace avere un po' la battuta. Però non hanno. No, dico, magari quelli lì cambieranno azienda. Non hanno presa su questo, se non che quella di coinvolgersi nel loro lavoro, quello di avere iniziativa, di essere innovativi, e quindi ricevono una riconoscenza come dire, legittima, naturale dagli altri, perché la gente stima il loro lavoro e quindi vanno avanti se raccolgono questo tipo di, certo, di frutti, se invece altri modi di andare avanti non ce ne sono praticamente. Grazie Vincenzo, e passiamo la linea alla regia per cosa ci fai ascoltare, Angela? Due carabinieri seduti in un bar durante la pausa pranzo. Uno dice all'altro: ieri ho comprato una spazzola per il bagno. E l'altro dice: e beh, allora, ma che ne so io, mi pare che andava meglio con la carta igienica. Tornati su Radio Alma, i colori dell'anima. Siamo qui in compagnia di Vincenzo che ci sta raccontando idee, più che non è nemmeno un'idea, è un'osservazione su come si potrebbe far funzionare le aziende in maniera diversa da quella a cui siamo un po' tutti abituati forse, quindi in una struttura proprio piramidale, e stiamo scoprendo che ci sono già delle realtà aziendali in cui la struttura gerarchica concepita tradizionalmente è venuta, cioè insomma scompare, non esiste più. Io avevo un paio di domande, tre. La prima mi chiedevo se ci sono insomma, se intanto qual è la taglia delle aziende? Parliamo di piccole, di medie, grandi aziende, cioè può funzionare anche su scala come tipo di modello, su una scala magari di una grossa azienda che possa avere più qualche centinaio? Sì, sì. Funziona? Sì, sì, tra le aziende studiate da Dominique, da Frédéric Laloux, ci sono aziende dai 100 ai 40.000 dipendenti. 40.000 dipendenti? Sì, sì, sì. Questa di 40.000 dipendenti funziona da 25 anni nel settore dell'energia ed è... Non lo ricordo a memoria. Comunque è una ditta multinazionale che funziona nel campo dell'energia e che praticamente, se ricordo bene, riacquista centrali elettriche nel mondo intero e crea delle reti di distribuzione elettrica. Quindi fantastico. Siamo a livello mondiale e di 40.000 dipendenti, quindi... Perché forse, come dicevi prima, in qualche modo se cadono le maschere... un po' crolla quello a cui l'impiegato dipendente medio è abituato, cioè appunto tutto questo sistema di magari cercare di mettersi in rilievo, di non fare nulla fingendo di lavorare, quindi a un certo punto si è forse tutti veramente a carte scoperte. Gli impiegati sono dietro Facebook dietro i loro schermi. E quindi niente, fondamentalmente hai anche risposto alla mia seconda domanda, che voleva essere un po' se esistono dei settori in cui questo tipo di organizzazione sembra funzionare meglio. Invece, parlandomi di energia, sei andato proprio non al di là di quello che pensavo. Non particolarmente. Chiaramente si potrebbe credere che alcuni settori siano predisposti a questo tipo di funzionamento. Voglio dire, nel campo della salute, dei servizi alle persone. E invece no. Uno degli esempi più clamorosi è anche una delle ditte più anziane in questo campo, è una ditta di un personaggio che andava col furgoncino a vendere pomodori in America. Ah, ecco, quindi proprio. Oggigiorno questa azienda che ha fondato lui, con praticamente un funzionamento assolutamente senza potere, cioè lui, anche se è il big boss di questa azienda e guadagna milioni di dollari all'anno con i pomodori, lui rifiuta categoricamente di sbrigare i problemi di conflitti, quindi dice no, dovete trovare voi la soluzione. Ma stiamo parlando di un personaggio che oggi trasforma il 50% dei pomodori prodotti in America e trasporta il 70% dei pomodori prodotti in America. Sapete che l'America produce molto più pomodoro di noi. Infatti no, stiamo parlando, sì, non io. Lo sapevo. Invece sì, perché tutto il ketchup, tutte le salse americane, voi eccetera, che mettete il ketchup nei vostri spaghetti? Beh, d'altronde il pomodoro era comunque originario di quelle zone, quindi è sudamericano, chiaramente. Sì, sudamericano, quindi... Chiaramente, comunque, no, l'ho tirato fuori non per caso, perché volevo un po' scostare anche gli italiani che pensano di essere, avere il primato del pomodoro, invece no, comunque quello nostro lo facciamo meglio, ovviamente. Non infatti c'è, stiamo non c'è parlando paragone. Di quantità, non di qualità e di gusto, queste sono due cose. No, vabbè, gusto e cultura sono quelle loro, noi abbiamo quelle nostre, insomma, basta che non ci vengano a mettere il ketchup sulla pizza, sugli spaghetti, per me contenti. Fanno quello che vogliono. Comunque, voglio dire, questa azienda è un'azienda che ha un 2500 dipendenti fissi, poi quando è la stagione della raccolta, eccetera, ne ha molti di più. E lì tutto si decide nel modo in cui ho nel modo che ho descritto prima. Ma io vedo che il tempo corre, ci resta ancora un quarto d'ora. Io avevo sentito che avevi ancora due domande, Cecilia. Sì, no, la seconda in realtà si è eliminata, era più sui settori, però la mia terza domanda, ho letto anche recentemente, non mi ricordo se tipo ieri o l'altro ieri, che anche la Virgin, che è una grossissima casa, adesso ha un nuovo modello aziendale per cui non ci saranno più gli orari di lavoro. Quindi mi sembra che tra, non so, aziende come Google, che insomma, che un po' tutti conoscono con la stanza dei giochi, la Virgin adesso in qualche modo toglie gli orari e dice voi lavorate... Quando crede, perché l'importante è l'obiettivo, poi vedete voi se lavorare 5 ore, 8 ore, e un gruppo in cui dopo le 6 le scrivanie si vengono praticamente sollevate dalla stanza, per cui i dipendenti sono obbligati ad andarsene a casa perché fanno yoga dopo nella stanza dove prima lavoravano, quindi mi dà l'impressione che il mondo dell'organizzazione aziendale sia molto un po' in fermento, che ci siano molte nuove idee. Volevo insomma sapere, io sono totalmente ignorante in materia, ma mi chiedevo da cosa dipende, da questa insoddisfazione che è stata in qualche modo identificata anche da, non mi ricordo più come si chiama, la LU. Allora, che cosa può portare le aziende a dire ok, dopo tanti anni che abbiamo funzionato in un certo modo, adesso ripensiamo totalmente e in qualche modo veniamo incontro ai dipendenti, ai bisogni in qualche modo del dipendente, perché? Allora, intanto voglio precisare una cosa, io non sono specialista in questo campo, comunque se posso rispondere in qualche modo alla tua domanda, le imprese come Google, tutte queste imprese della Facebook, eccetera, della Silicon Valley, funzionano in un altro modo, la gerarchia c'è. Direi anche che hanno un modo più così infantilizzante, praticamente ovviamente sì, instaurano una certa flessibilità, si preoccupano dello star bene del dipendente eccetera, però sempre tenendolo sotto controllo anche quando fa lo yoga, perché glielo propone l'azienda lo yoga, capito? Quindi okay. Ovviamente sono condizioni che non sono spiacevoli, meglio fare yoga che fare 10 ore di straordinarie a settimana, ma la struttura di funzionamento non è da paragonare, non cambia, con queste che sto descrivendo oggi in questa trasmissione, ecco. Quindi ho fatto, ma il movimento c'è, no, però ovviamente però in qualche modo sì. Sintomo che comunque ci si pone ancora comunque delle domande, ci si interroga forse sul perché magari il dipendente possa in qualche modo non essere nell'azienda quella più classica, non sentirsi in qualche modo magari soddisfatto, schiacciato da questa gerarchia. È molto interessante come tipo di modello questo del... È difficile pure da immaginare per qualcuno che come me ha avuto esperienze lavorative solo in ambiti in cui la gerarchia c'era, c'è, presente probabilmente e continuerà ad esserci, esatto. Quindi anche solo immaginare come potrebbe essere una struttura diversa è... challenging, non trovo la parola in italiano. Sì. Ovviamente il tempo è abbastanza stretto questa sera, io posso dare ragazze, semplicemente un... la sta facendo lui la trasmissione, perché certe volte mentre lui parla voi rimanete proprio è interessantissimo, poi c'hai una voce, ma di più lo dobbiamo far venire quest'uomo in grazie, radio Angelo, grazie. di più tanto di argomenti possiamo ne abbiamo a bizzeffe, abbiamo la LU, abbiamo tante altre cose, cioè veramente c'è stato un momento mentre prima tu parlavi che loro stavano noi non abbiamo la webcam, e meno male, perché sennò c'era, l'abbiamo tolta proprio per proteggerci. Vi ridò la linea. E per quanto ti è possibile riesci a rispondere a quanto diceva Cecilia o... Sì, sto tentando di riprendere il filo dove l'abbiamo lasciato. Allora, ovviamente ci sono tanti movimenti, non tutti uguali, ho sentito dire per esempio che in alcune aziende ognuno arriva all'orario che gli sta bene e finisce all'orario che gli sta bene, basta che riempie praticamente la sua missione lavorativa. Allora, c'è gente che è efficacissima dalle 4 di mattina alle 9, poi ha bisogno di svariarsi e fare qualcos'altro. C'è invece chi lavora la notte, no? Quindi insomma, finché è possibile, perché ovviamente se tu devi andare a chiedere l'informazione, il pezzo di ricambio, il tuo collega che lavora dalle 4 alle 7 di mattina e l'altro invece inizia alle 7 di sera, insomma abbiamo problemi. Comunque nel campo dell'informatica... dei servizi a delle ore precise, come per esempio il centro diurno dove lavori, e lì è un po' più complesso, no? Delle perché... contingenze che bisogna rispettare. Comunque tutte queste cose abbastanza innovative le vivono specialmente le aziende che stanno nelle IT, nelle tecnologie nuove, insomma, e quindi loro sono molto più flessibili perché pensare a come organizzare Facebook o Google, che sia alle due di notte o alle due di pomeriggio, non cambia c'è niente. Sempre di più anche il lavoro da casa, no? Il lavoro anche quello di modo che effettivamente molti possano organizzarsi con la vita di famiglia eccetera. Bambini, mariti, mogli, eccetera, amanti, insomma. O perché no? Fanno parte della vita anche quelle, no? Non so, hai qualche suggerimento al tema? Tipo? Passiamo la linea. Va bene, faccio io. Un pazzo in un manicomio disegna un cerchio per terra e inizia a saltarci dentro. Il dottore, passando e vedendolo fare così, gli chiese: ma che stai facendo? Faccio un salto in centro, ti serve qualche cosa? Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera, siamo ritornati su I colori dell'anima, su Radio Alma. Ci abbiamo ormai verso la conclusione, perché sono già le 9:10. Il tempo vola, devo dire, insomma il tempo è volato in compagnia del nostro ospite stasera, Vincenzo. La dilatazione spazio-temporale di cui soffrivo oggi si è fermata qui in questa stanza, il tempo è volato. Un momento di silenzio. Carla dorme. Carla. No, cioè io sto leggendo dei nostri cari amici Michelangelo ed Elena, che ben stesi sul loro divano ci stanno ascoltando e ci dicono che la trasmissione gli piace tanto, che sono interessati, che gli ha fatto piacere sentire di questo argomento assolutamente nuovo. E per chi lavora come loro in due aziende molto gerarchiche, penso che possa essere abbastanza interessante di, insomma, sentire che qualcosa di diverso potrebbe esserci, forse non nelle loro aziende, ma in generale, anche perché no, per i loro figli, no? Non credo che abbiamo dato la pagina di Facebook stasera, penso che c'è scappata Cecilia. È vero. Ed è così, ed è questo è un segno. Pendevate che finalmente dalle labbra del nostro ospite, avete ricordato, scordato tutto. Sì, tutto. Questa voce ci ha distratto, diciamolo Cecilia, siamo distratte. Questa voce radiofonica ci ha completamente, ci ha ammaliato e stregato e siamo andate nel pallone, totalmente. Sì, ecco. Con difficoltà ti chiederemo, Vincenzo, di farci una conclusione. Qual è la cosa che innanzitutto ti ha fatto scegliere di parlare di questo argomento stasera con noi? Perché hai pensato che fosse così? Perché ti ha rapito? Che cosa ti ha stimolato la voglia di parlarne a così tanti radioascoltatori, perché noi sappiamo che sono tantissimi. grazie. Probabilmente la trasmissione, I colori dell'anima, ho pensato di cosa avrei voglia di parlare, cosa sono i miei umori in questo periodo, le mie riflessioni, quindi è una condivisione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è anche a che vedere con l'Italia, cioè l'Italia che in questi tempi mi preoccupa, come mi preoccupano anche altre cose, ma in particolar modo, ecco, come tanti suppongo, mi pongo la domanda: ma dove stiamo andando? Dove sta andando l'Italia? E quindi cosa possiamo fare? Ecco, la reazione è questa. Tu mi dicevi quando ti ho chiamato: sì, ma non voglio venire in radio per iniziare a dire no, l'Italia non va, ci sono troppi problemi, dove stiamo andando? Mi piacerebbe essere propositivo, magari parlare di qualcosa dove sottintendo che sarebbe bello fare qualcosa di diverso in Italia, ma magari proporre qualcosa. Dire ok, va tutto a rotoli, però io magari, ecco, la lancio quest'idea, poi vediamo. Era forse su questo filone che ti sei... Esattamente, esattamente. Anche se sono più, un po' più ottimista, non sta andando tutto a rotoli, anzi è importante parlare di chi ha iniziative, di chi propone insomma iniziative interessanti, di sviluppo, ecco, chi esce dal discorso classico che ci sta pesando sugli orecchi. Io volevo tornare a Cecilia, praticamente ho scelto bene il tema, l'ultimo brano, C'è ancora tempo, perché tu eri persa in questa questione del tempo, ma è stato scelto anche perché, ecco, il messaggio che volevo dare stasera è un messaggio di speranza, anche se il tempo è una cosa strana. Citerò una piccola aneddote, ma insomma piccola, che lascia pensare. Aristotele nel 350 avanti Cristo dichiarò una falsità enorme, quando la diciamo oggi, che le donne avevano meno denti degli uomini. E sapete quando è venuto in mente a qualcuno di verificare se questa dichiarazione fosse giusta? Non lo so. Rinascimento, quindi. Ah, un po' di anni dopo. Quasi 2000 anni quasi dopo. Quasi 2000 anni dopo, non male. Ci fu una persona che si... proprio disse, ma andiamo a vedere, contiamole, perché sì, è stato detto, ma ne siamo certi, non è stato mai accertato prima. È allucinante, è abbastanza allucinante. Però vedi, questo è da... Cecilia, apri un po' la bocca. Però questo rientra anche un po' in tutto ciò che abbiamo detto, quindi c'è sempre, insomma, modo di cambiare anche ciò a cui siamo forse abituati, i modi di pensare che diamo per scontati. A questo punto, Angelo, ci fa segni il colore della serata, il colore della serata, perché ci sta per uccidere, Angelo. Allora, rosso, ce ne sono due, rosso e azzurro. Motivo? Sei vestito di rosso ed azzurro? Motivo sì, no, ma sono uscito prima a casa, ero vestito in grigio e arancione, poi mi sono cambiato per venire qui e ho messo un pantalone Vincenzo rosso e una maglia azzurra. Arancione, verde, rosso, blu, quindi oggi blu e rosso. Esatto. Questo è il tuo colore, il tuo colore, esatto, dell'anima. E ti ringraziamo, Vincenzo, per essere venuto. Noi ti rinvitiamo ogni mese, se vuoi, se hai un po' di tempo, un lunedì al mese. Grazie per l'invito, tornerò ben volentieri, forse non ogni mese comunque. Però se vorrai tornare basta che ci fai sapere, ci contatti, ci guarda, dici di che cosa vogliamo parlare questa sono volta. Andata a una nuova conferenza, mi piacerebbe parlarvene, e noi siamo qua l'ultimo lunedì di ogni mese, ricordiamo i nostri radioascoltatori, dalle 21 alle 22. Salutiamo anche le altre equipe che fanno il nostro stesso lavoro qui lunedì, ogni lunedì, e vi diamo appuntamento quindi all'ultimo lunedì del mese di giugno. Vuoi salutare qualcuno, Vincenzo? Tutti, ti salutiamo. Senza tutti. Parole. Spero che insomma le informazioni che ho condiviso con gli ascoltatori siano state gradite. Con piacere tornerò una prossima volta. Perfetto, beh, un saluto a tutti, vi ringraziamo di essere stati con noi all'ultimo lunedì di giugno, di cui la data mi è oscura in questo momento. Oscuro. Oscura. E a una buona e buonissima serata, al mese prossimo. Ciao. A Napoli un delinquente sale sull'autobus e fa: fermi tutti, questa è una rapina. E un passeggero: oh, maronna, che paura, credevo che era il controllore. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima.